Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, è domenica 20 aprile 2014, la 171esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo Francesco Azzurri e per le selezioni musicali Lorenzo Ranfagni e Giona Vinti. Oggi è il giorno di Pasqua, forse il giorno più brutto dell'anno per chiunque abbia a cuore la sorte degli altri animali. Vi parleremo di questa ricorrenza e del fiume di sangue che la accompagna immancabilmente, raccontandovi da Milano una manifestazione in Piazza Duomo condotta dal gruppo Essere Animali. E poi vi diremo dell'investigazione condotta dai coraggiosi attivisti di Animal Equality per documentare come realmente vivono e muoiono gli agnelli, che oggi imbandiscono purtroppo molte tavole. Il nostro cuoco di riferimento Gabriele Palloni e la nostra Valentina Reggioli vi racconteranno a modo loro il pranzo pasquale, senza offrirvi stavolta ricette. Quelle ve le abbiamo proposte nelle puntate precedenti e speriamo che molti di voi abbiano fatto tesoro dei consigli del nostro Gabs. Il professore Luigi Lombardi Vallauri, nella sua rubrica Sostiene Vallauri, affronterà la questione etica e religiosa posta dalla Pasqua e dall'abitudine al consumo di agnello e mostrerà come non vi sia alcun nesso fra la festività religiosa e questa macabra e violenta tradizione. Non parleremo comunque solo di Pasqua. Per la nostra rubrica Resistenza Animale e quindi le storie di ribellione e di evasione di singoli individui, vi racconteremo stavolta la vicenda di un vitello in Piemonte, con il commento, come di consueto, di Marco Reggio. Infine, per spezzare il clima un po' macabro di questa giornata, vi proporremo una storia positiva, il salvataggio di un gruppo di maialine che ora hanno bisogno di sostegno per poter condurre una vita degna, un sostegno che vi invitiamo a garantire, come noi stessi faremo. Resistiamo, animali! Storie di fughe e ribellioni. Da qualche settimana abbiamo sostituito la consueta rubrica Visti da vicino, dedicata a singoli animali, guardati nella loro individualità, soggettività, unicità, con una nuova rubrica intitolata Resistiamo Animali, storie di fughe e ribellioni. Si tratta di una nuova produzione, una collaborazione e sinergia multimediale tra la nostra redazione radiofonica, che consiste principalmente in voci e suoni, e la redazione del blog resistenzaanimale.noblogs.org, fatto principalmente di testi scritti e immagini. L'obiettivo di questa nostra nuova rubrica ricalca quella del blog, ovvero riconoscere agli animali la ferma volontà e la capacità potenziale di autoliberazione. Non vogliamo pensarci come i soli eroi liberatori, i generosi campioni d'altruismo, ma al netto della sproporzione di potere e di strumenti, vogliamo pensarci come compagni di strada a loro affiancati nella lotta per la liberazione reciproca. La nuova rubrica Resistiamo Animali è a cura di Roberta Marino, Francesca De Matteis e Marco Reggio, voci narranti che vi accompagneranno in questo nuovo viaggio. Cosa avrà pensato il vitello, libero e spensierato, dopo ben 2 settimane di libertà, quando si è trovato di fronte il cacciatore che, fiero, guardandolo dritto negli occhi, gli avrà puntato il fucile contro per freddarlo. Ma facciamo un passo indietro. Siamo a Pinarolo, in provincia di Torino, e come sempre più di frequente le cronache ci raccontano, un animale cosiddetto da reddito, in questo caso un vitello, riesce a scappare da una cascina. È la conquista della libertà. E l'animale sembra essersene accorto e soprattutto sembra proprio godersela. Trova infatti rifugio a Roletto, a circa 8 km da Pinarolo. Pensate, ben 8 km percorsi, del tutto indisturbato. E qui è libero di abbeverarsi serenamente nei pressi di un torrente e di mangiare erba a volontà, e non cereali o altre sporche prelibatezze che con ogni probabilità gli venivano propinate nell'allevamento. Ma la pacchia sta per finire. Viene infatti avvistato da alcuni abitanti della zona e non poteva che scattare la caccia al temibile e pericoloso intruso. Si decide di far intervenire le autorità. Vengono contattati, come vuole la prassi, i carabinieri e gli operatori ASL, che senza indugiare a lungo emettono il loro verdetto. Si tratta di un animale da reddito che si è allontanato per troppo tempo dalla sua casa prigione. Ergo, non può più essere destinato alla macellazione, per il rischio di contaminazione della carne. I più ottimisti avranno immaginato a questo punto un esito favorevole della storia, ossia ad esempio il ricovero in qualche rifugio. In fondo erano 2 settimane che vagava libero, l'animale, diciamolo pure, era del tutto innocuo. E invece no, se non sei buono per la carne, non puoi essere qualcos'altro, o meglio, non puoi essere qualcun altro. E allora si ritiene sia più idoneo eliminarlo per ragioni di pubblica incolumità. E a farlo sarà un cacciatore, che per l'occasione diventerà un ausiliario di polizia giudiziaria. Finisce così la storia di libertà di questo vitello, davanti ad un fucile, davanti al fatto di non essere nessuno, almeno agli occhi dell'uomo. Il fatto in sé che un vitello fuggito da una cascina, da un allevamento, venga trovato per strada e abbattuto non è molto strano. In realtà spesso questo è l'epilogo in caso di evasione di animali allevati. Questo caso del vitello di Pinerolo è particolarmente interessante proprio per le parole che sono state utilizzate dalle autorità e, se vogliamo, anche per le motivazioni per cui è stato abbattuto il vitello. Innanzitutto abbiamo un animale che si può dire non dava fastidio a nessuno, quindi abbiamo un animale mansueto, erbivoro, non feroce, non portatore di rischi sanitari, eccetera eccetera, che si è trovato un suo posto, quindi dopo l'evasione ha trovato un luogo in cui ha del cibo, dell'acqua e, diciamo, per dirlo terra a terra, non dà fastidio a nessuno. Nonostante questo, la comunità umana del luogo lo segnala alle autorità. Qui stiamo parlando di gente comune, gente che in qualche modo è preoccupata della presenza di qualcuno che non rientra negli schemi, che non rientra nella normale gestione degli spazi urbani, ed è in questo caso extraurbani, quindi nella normale divisione dei territori, con i loro recinti, le loro strade, le loro proprietà private, naturalmente umane, e così via. Lo segnalano le autorità e le autorità intervengono. Con quale motivazione? Quella della pubblica incolumità. Fa un po' sorridere, perché un vero rischio di incolumità non c'è in questo caso, ma intervengono non tanto per riconsegnare una merce, ma per ristabilire un ordine. In effetti, la prima cosa che si nota è che per motivi sanitari di tipo normativo, un animale che da un po' di tempo è lontano dall'allevamento ed è in libertà, non può più tornarci. Questo dichiarano le autorità, e quindi quello che prima era, sostanzialmente aveva lo status di carne macellabile, assume un altro status. Non è più carne macellabile, e noi ci aspetteremmo che a questo punto sia un animale selvatico, semiselvatico, o che trovi ospitalità in un rifugio, e invece no, è un elemento fuori posto, nello spazio, nelle regole umane, quindi in qualche modo una specie di criminale. Questa è una cosa che accadeva anche, diciamo, più frequentemente nei secoli scorsi, in cui proprio gli evasi, i cavalli soprattutto, ma anche i bovini, venivano considerati proprio come criminali, riacciuffati, e in alcuni casi a loro veniva data una punizione esemplare. Cioè, si tratta proprio di una pena, in qualche modo di sentenze, sentenze che vengono eseguite. Quindi questo vitello viene ucciso, ma a questo cambiamento, diciamo, di status da carne macellabile a deviante, criminale, corrisponde il cambiamento di status anche di chi lo uccide. Questo vitello viene ucciso da un cacciatore, che però non lo uccide in quanto cacciatore, quindi colui che uccide per un tremendo divertimento o per cibarsi delle carcasse degli animali o entrambe le cose, ma viene ucciso da un cacciatore che diventa ufficialmente un ausiliario di polizia giudiziaria. Bisogna notare che questa espressione dice tutto, cioè si mette in campo nella persona di quello che era un cacciatore un ausiliario di polizia giudiziaria, quindi effettivamente è proprio la legge, cioè colui che in qualche modo esegue una sentenza. Quindi ci chiediamo qual è questa sentenza, cosa ha violato effettivamente questo vitello. Beh, ha violato le regole del proprio status, quindi ha osato ribellarsi al fatto di essere carne da macello, di essere futura merce, ha osato violare degli spazi, sia uscendo dal proprio recinto che andando in altri territori, e ha violato le normali categorie per cui l'animale da reddito è un animale da reddito e non può essere un individuo in libertà nello spazio, in una comunità che potrebbe, direi, annoverare tra i suoi membri tanto gli umani quanto i non umani, magari possibilmente anche in pace. Notizie, interviste, attualità. Abbiamo deciso di toglierli dopo che comunque per più di mezz'ora sono stati in questa piazza simbolo di tutti gli animali che vengono macellati questa settimana per la Pasqua, di tutti gli animali che vengono macellati e uccisi ogni giorno per essere consumati, per essere ridotti a degli oggetti. La protesta continua anche senza di loro. Loro, i protagonisti di un orribile massacro. Loro. Quattro piccoli agnellini ridotti a oggetti e scarti di un allevamento sono stati comunque presenti. Non c'è stato bisogno di parole o grandi discorsi. Avvolti nelle braccia degli attivisti di Essere Animali, hanno testimoniato con il loro drammatico silenzio quello che accade ogni giorno nei macelli e che si ripete in maniera ancora più eclatante per festività religiose come la Pasqua. Un silenzio assordante che nel caos e nella frenesia del centro milanese, in Piazza Duomo, si è comunque fatto sentire. Una protesta forte e provocatoria, quella portata in piazza domenica 13 aprile a Milano. Proprio a una settimana dalla Pasqua, ha voluto ricordare chi sono e qual è il destino delle altre 900.000 vittime uccise ogni anno come i 4 cadaveri di Agnellini, fatti allontanare con grande sollecitudine dalla polizia per non provocare turbamento nei passanti ed evitare, chissà, magari quella scossa determinante in grado di distoglierli dalla vacuità dello shopping e delle vetrine. Qualcuno versa però qualche lacrima. Forse, almeno per loro, la polizia non è arrivata in tempo. Sentiamo Simone Montuschi, portavoce di Essere Animali. Abbiamo portato 4 piccoli cadaveri di Agnellini, sono animali che abbiamo trovato all'esterno degli allevamenti intensivi, dove vengono proprio gettati fuori delle pareti d'allevamento. Sono quegli animali che non riescono a sopravvivere alle condizioni di allevamento intensivo. Noi li abbiamo presi e portati qua in piazza per fare un'iniziativa di sensibilizzazione, quindi un'iniziativa che vuol parlare del consumo, della strage di carne di agnello, ma non solo. Allacciarci da questi animali, per cui solitamente si prova più empatia, a tutti quanti gli animali utilizzati per l'alimentazione, quindi anche i maiali, le galline, tutte quante le altre specie. Già altre volte abbiamo portato i cadaveri di animali presi dagli allevamenti intensivi in piazza. È un'iniziativa che può essere giudicata anche un po' provocante, in un certo senso lo è, perché semplicemente vogliamo mostrare quello che poi è il vero volto della carne. Le persone spesso acquistano carne in maniera inconsapevole al supermercato, alla macelleria, e magari sì, per quanto sia ovvio che dietro la carne c'è un animale morto, però vi è molta ignoranza ancora, non si sanno come vengono allevati questi animali, come vengono uccisi, si pensa ancora che la carne sia un alimento necessario per la nostra salute, invece questa è una sciocchezza anche da un punto di vista scientifico. Siamo anche qua in piazza per questo motivo, che vuol dire che proprio perché la carne e gli altri prodotti di origine animale non sono assolutamente necessari per vivere bene, per vivere in salute, allora è necessario superare l'utilizzo di animali per l'alimentazione. Non è solo una questione di sensibilità o di empatia verso gli animali, è proprio una questione di giustizia. Abbiamo visto anche sinceramente persone che non conosciamo, passanti così, che sono scoppiati a piangere. È sicuramente vero che l'agnellino è un animale che psicologicamente anche aspira più empatia. Noi siamo qua anche per questo, perché infatti stiamo distribuendo materiale informativo, abbiamo il nostro banchetto, tutti i cuccioli di tutte le specie alla fine sono agnellini, perché comunque indipendentemente dall'aspetto fisico è il fatto che provano sofferenza, la capacità di soffrire che dovrebbe essere quella a farci porre degli interrogativi e darci delle risposte giuste. Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali. Siamo al telefono con Fabrizio Angelini, portavoce in Italia dell'associazione Animal Equality, che ha recentemente diffuso i risultati di una investigazione sotto copertura realizzata grazie a coraggiosi volontari che si fanno assumere in allevamenti e macelli e, usando telecamere nascoste, portano poi all'esterno quello che in tutti i modi si cerca di non far sapere al mercato, al popolo dei consumatori. Il titolo di questa operazione è Salva un agnello, la campagna per chi non può difendersi. Animal Equality ha realizzato questa investigazione all'interno degli allevamenti e dei macelli di agnelli e capretti in Italia, andando a documentare quella che è una realtà terribile che riguarda centinaia di migliaia di animali, cuccioli piccolissimi. Gli agnelli e i capretti hanno poco meno di un mese quando vengono mandati al macello, vengono separati dalle loro madri, uccisi e macellati per poi finire sulle tavole durante una festa tradizionale. Quello che noi abbiamo rinvenuto in questi allevamenti, che sono stati visitati dai nostri investigatori grazie anche all'utilizzo di telecamere nascoste, sono animali tenuti in condizioni ovviamente inimmaginabili, animali stipati, tenuti tra rottami, rifiuti, animali che non hanno nessun tipo di cura veterinaria, che non hanno nessuna attenzione, molto spesso malati. Abbiamo documentato pecore con mastiti, con le mammelle in necrosi, che vengono separate dal gregge perché malate, in attesa di essere macellate, e vengono tenute legate da sole, lontane. Abbiamo documentato la pesatura degli agnelli, che è una pratica molto controversa al limite della legalità, in cui gruppi di agnelli, anche abbastanza numerosi, parliamo di 10-15 individui, vengono pesati, legati per i carpi, e pesati e attaccati ad un gancio, e nel divincolarsi loro rischiano di lussarsi le spalle, di rompersi le gambe, quindi chiaramente è una pratica che provoca un grande stress emotivo ma anche un grande dolore fisico. E questa è la realtà degli allevamenti. Poi nei macelli le immagini parlano da sole, animali terrorizzati, lasciati da soli, che vengono storditi e molto spesso nemmeno nella maniera corretta, no? Abbiamo documentato anche da questo punto di vista le inadempienze dei lavoratori che non riescono a stordire gli animali, c'è l'immagine di un capretto e di un lavoratore che più volte prova a stordirlo con la pistola che però non funziona, quindi l'attesa prima della morte si prolunga e questo è chiaramente un dolore enorme per gli animali e anche una grande fonte di paura. Quindi noi abbiamo portato alla luce tutte queste realtà terribili che affliggono la vita di migliaia di animali e che sono la normalità, non sono casi isolati, non siamo andati a cercare un allevamento peggiore di un altro, noi semplicemente abbiamo documentato quello che avviene in maniera molto diffusa nel nostro paese, con particolare attenzione al periodo antecedente alla Pasqua, che è il periodo in cui la carne d'agnello e di capretto raggiunge il suo massimo picco di consumo. Il video e le foto delle investigazioni, il diario tenuto dagli investigatori e gli impegni da firmare sono nel sito www.salvaunagnello.com. Affrontare da animalisti sensibili la Pasqua non è semplice. Si ottengono dei giorni di vacanza e anche a noi toccano, e ne approfittiamo. Ci si sente quindi, volenti o nolenti, parte di una festa, di una cultura, di una tradizione, che non riusciamo a ignorare. D'altra parte ci si sente feriti ed avviliti per il prezzo di sangue che ancora oggi viene pagato da animali innocenti e di cui i nostri stessi vicini, parenti e amici continuano ad approfittare per banchetti che, per chi come noi ragiona sulla questione animale, risultano sempre meno accettabili. Insomma, si fa sempre più fatica a relativizzare e a giustificare. Per questo, trovandoci in un clima psicologico così fragile e conflittuale, ricevere nella posta un messaggio dal titolo SOS maialine scampate dal macello ci ha riempiti di gioia. In queste tenebre, insomma, è entrato un fascio di luce. Ci siamo messi subito in contatto con Tamara Sciliberto, la persona che a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, ha adottato queste due scrofette e che chiede aiuto. Sentiamo il suo racconto. Il servizio veterinario locale che aveva ricevuto nella mattinata una telefonata da una ragazza che abita sul lungomare, in sostanza, della periferia della città dove vivo, dicendo che appunto c'erano queste due maialine davanti a casa. Le ha messe in uno scatolone e l'agente tecnico che solitamente prende cani trovati vaganti sul territorio si è ritrovato invece a portare in ambulatorio veterinario queste due maialine. Il direttore dell'ufficio ecologia ambiente di Fano, Emanuela Giovannelli, è stata appunto la persona poi che ha cominciato a contattare volontari della zona perché si occupassero di questi animali, perché l'ASL portano un canile in gattile, solo cani e gatti. Quando sono andata a prenderle erano agitatissime, urlavano da matti perché avevano una fame pazzesca, perché essendo proprio cucciole di pochi giorni sono abituate chiaramente a mangiare spessissimo e soprattutto ad avere lì la mamma scrofa quindi a disposizione, e lì per lì è stato un po' il panico perché le ho portate a casa, non sapevo assolutamente come gestirle, non sapevo che latte dare, ho cominciato a fare un sacco di telefonate dai veterinari alle persone, ai volontari eccetera, ognuno mi diceva una cosa un po' diversa. Ho cominciato con il latte vaccino, che chiaramente non andava assolutamente bene, infatti no. Il primo giorno ho avuto un po' di problemi di pancia. Il giorno dopo mi sono organizzata un po' meglio con il latte per vitelli, perché purtroppo il latte per suini esiste, però non viene utilizzato neanche dagli allevatori, quindi è introvabile. Però insomma poi sono riuscita a trovare anche il veterinario giusto, specializzato in animali da allevamento, e le cose quindi dal giorno dopo sono andate tutte per il meglio. Quindi le allatto ogni 2 ore e mezza col biberon e per il momento le tengo in bagno perché ho finito le stanze praticamente, c'è un animale, quindi l'unico libero ormai era il bagno. Però sono ambientate e adattate benissimo. Ho comperato la lampada quella infrarossi che si utilizza proprio per i cuccioli neonati che vengono abbandonati, che vengono trovati insomma senza mamma, sia per i cani che per i gatti, perché devono avere una temperatura un po' più alta. Loro poi sono intelligentissime. Le ho messo una cuccia imbottita ammorbidita tipo quella dei gatti e loro, se hanno troppo caldo quando sono sotto la lampada, loro la spostano e si mettono in una zona dove hanno meno caldo. Fanno la pipì in un determinato punto lontano dal loro luogo di riposo. Li ho messi i giornali, loro riescono a farla anche i giornali. Adesso proverò con una littiera tipo gattini. Mi riconoscono ormai come mamma scrofa, quindi quando entro in bagno è tutto un crum crum crum, fa un binoculare così per cercare la pappa. E allora, non amano essere presi in braccio, tipo i cani e i gatti, quando non hanno le zampe poggiate per terra vanno nel panico, però se mi siedo per terra loro mi vengono in braccio e cercano di cicciare, cercano il latte. Se hanno appena mangiato invece gli piace molto farsi toccare il pancino, piace essere comunque coccolate. Ieri ho addirittura provato a mettere, perché sono una po' più piccola e una un po' più grande, quella più grandina ho provato a portarla di sotto nel giardino, ha annusato un pochino, poi si è girata perché le ho lasciato un po' il guinzaglio morbido per vedere cosa faceva ed è tornata in casa, non era pronta, non era ancora pronta per esibirsi in società, non era pronta per uscire. Adesso che mangiano ogni due ore eccetera per il bagno, camminano moltissimo, si muovono tantissimo, fanno riposino quando hanno la pancia piena. Quindi diciamo che il giovedì, il primo giorno, erano anche più piccole, avranno avuto una decina di giorni giovedì scorso quando sono state trovate. Quindi probabilmente camminavano poco, però erano in piedi sulle loro zampe. E comunque il veterinario mi ha detto che appena nascono loro sanno già camminare. Non sappiamo da dove provengano, nel senso che gli è stato fatto il taglio della coda, che è una cosa che si fa in allevamento, perché loro chiaramente vanno in stress quando sono molti esemplari chiusi in una situazione che non è la loro. Da questo abbiamo dedotto che non fossero animali da scarto e che comunque non esiste un vero e proprio animale da scarto in un allevamento di suini, nel senso che quelli che non ce la fanno non vengono aiutati a sopravvivere, però succede raramente. Quindi noi abbiamo fatto un sacco di ipotesi tra tutti, tra veterinari, amici, volontari, eccetera. E come siano arrivati sul lungomare rimane un mistero. Rimane il fatto che sono contentissima che loro ce l'abbiano fatta, mi piace il cuore pensare che per due salvate tutti gli altri diventeranno prosciutti e porchette. Hai già dato loro un nome, immagino. Sì, gliel'ha dato mio figlio, perché oltre a tutti gli animali ho anche un bambino di quasi 8 anni. Allora, una è stata chiamata Babe, come il famoso maialino coraggioso Babe del film. Un classico. E l'altra Vegan, in onore della mamma, che è vegana, mi l'ha chiamata. La mamma saresti quindi te? Sì, sono io. Ho detto sicuramente questo nome ti farà piacere, ho detto va bene, benvenga, quindi Babe e Vegan. E che futuro? Adesso quando saranno un po' più cresciute, che potranno fare così i primi vaccini, che finalmente ci saremo trasferiti in questa casa in campagna, rimarranno con noi. Io questo appello che ho fatto, che ti è arrivato, era un appello per fare una sorta di adozione a distanza, come si fa nei canili. Siccome li terrò tutta la vita, cercavo un aiuto economico, perché purtroppo appunto avendo uno stipendio solo a casa, non lavorando, devo mantenere tutti questi animali, che cerco di fare nel migliore dei modi, senza fargli mancare chiaramente nulla, che sia una buona alimentazione, vaccini, terapie eccetera. Chiedevo appunto un'adozione a distanza, un sostegno per la costruzione del loro recinto, che chiaramente spero di poter fare il più grande possibile. Per adottare a distanza Babe e Vegan, le due scrofette salvate da Tamara, potete scrivere a tamara.sciliberto@libero.it. Metteremo nel nostro blog tutte le informazioni per le donazioni attraverso PostPay. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ho sentito uno strano rumore. Cos'era? Era un grido. Una specie di grido come la voce di un bambino. E che hai fatto? Sono andata di sotto, fuori. Mi sono avvicinata furtivamente alla stalla. Avevo tanta paura a guardare dentro, ma dovevo. E che hai visto, Clarice? Che hai visto? Gli agnelli stavano urlando. Stavano macellando gli agnellini? Urlavano come pazzi. Questa puntata, Sciopero dei fornelli al pasto gentile, lo chef vegan chiude il gas in memoria degli individui che anche quest'anno sono stati sacrificati per l'orrida tradizione dell'agnello di Pasqua. E ad annunciare questa crudeltà ho scelto l'inquietante dialogo fra Clarisse e Hannibal Lecter. Quale allegoria migliore del più famoso cannibale cinematografico poteva essere più adatta? Hannibal è un mostro agli occhi di tutti perché si nutre di carne umana. Si nutre di carne umana. Forse perché con la sua immagine vacilla la nostra sicurezza di essere in cima alla catena alimentare, insinuando il terrore di finire nel piatto di qualcuno. Però condividiamo la tradizione che celebra il ritorno alla vita, uccidendo il cucciolo di un'altra specie. Uccidiamo e ci nutriamo di quella che rappresenta l'immagine dell'innocenza. Beh, oltre che crudele mi pare alquanto contraddittorio. Quindi a tutti coloro che oggi non sono riusciti a fare a meno di portare un agnellino in tavola, il mio augurio sentito di potersi svegliare al buio nel cuore della notte e sentire il grido di quei poveri innocenti. Che ne è stato del tuo agnello, Clarisse? L'ho ucciso. Ti svegli ancora qualche volta, vero? Ti svegli al buio e senti il grido di quegli innocenti. Eccoci di nuovo alla festa più odiata dagli atei animalisti o un po' specisti come me. Perché se è vero che ogni animale merita di vivere e di non finire nei nostri, loro, piatti, è anche vero che la Pasqua con la sua mattanza massiccia di cuccioli è degno del peggior incubo uscito dalla testa del peggior scrittore horror che possa esistere. La cosa che più dovrebbe far indignare è che spesso la carne di agnello nemmeno piace. È troppo grassa, è troppo dolce. Fatto sta che per una tradizione migliaia di animali vengono strappati dalle loro madri e trucidati per dar da mangiare a questi tradizionalisti. La cosa per noi diversamente consumatori diventa tragica quando per le complesse dinamiche familiari si è costretti a pranzare assieme ad onnivori consumatori dei suddetti cuccioli o di pezzi di cadaveri altrettanto meritevoli di vivere. Il cosiddetto pranzo di Pasqua, che nel peggiore dei casi può protrarsi anche per diverse ore. In realtà in casa mia nessuno mangia più agnello da anni, almeno questo mi è riuscito a farlo passare. In casa mia non si mangiano i cuccioli. Ma immaginiamo allora un tipico pranzo pasquale. Ogni riferimento a fatti o cose accadute è puramente casuale. Si comincia con un bel piatto di crostini. I famosi crostini toscani, ma che bella consuetudine la nostra, non possono mancare in una tavola in festa. Oppure degli intingoli a base di maionese, fatta con uova, che non grondano meno sangue della vera ciccia. E se per sfortuna alla tavola c'è un ospite nuovo, immancabilmente noterà che tu non mangi come gli altri, ma il tuo piattino davanti, da cui mediamente intingono tutti, e alla fine non ti rimane un bel niente. E allora la prima domanda sarà, ma non mangi la carne? E tu, no, non la mangio più da anni. E lui, ah, non sai cosa ti perdi. E allora te lì vorresti rispondere che invece lo sai benissimo, che ti perdi l'insorgenza di malattie cardiovascolari, la pressione alta, il colesterolo, per finire con l'ittus e anche con i tumori del tratto gastrointestinale. Ma poi saresti antipatico e cadrebbe il gelo e subito tutti direbbero che sei pesantemente estremista e asociale. Allora ti limiti a sorridere e dire che hai smesso per motivi etici che superavano il piacere delle papille gustative. E a quel punto interverrà un altro commensale che, a sentire nominata la parola etica, ti dirà che la tua battaglia la rispetta, ma non la condivide perché ci sono i bambini che muoiono di fame e poi perché a lui la carne piace troppo. Il pranzo andrà avanti con domande del tipo: ma il pane lo mangi? E il vino lo bevi? A cui tu non sai che rispondere, perché non sarebbe saggio addentrarsi in terreni scivolosi come lo strutto del pane o la cucciniglia nelle bevande rosse. A un certo punto comparirà la pietanza principale, che nella maggior parte dei casi sarà costoletta di agnello. E vorresti far partire la registrazione che hai fatto del pianto dell'agnellina che tu hai cercato invano di salvare e che ti è morta fra le braccia. Pianto che continui a sentire a distanza di anni. Perché sei certo che una volta sentito quel pianto, tanto simile a quello di un cucciolo umano, nessun essere senziente vorrebbe più esserne la causa. Poi ti giri e vedi come questi ospiti si leccano le dita e quanti complimenti fanno alla cuoca per la scelta di una carne così tenera. E lasci perdere e speri che arrivi presto la fine del pranzo. L'unica ancora di salvezza, in effetti, te la offrono i bambini eventualmente presenti, soprattutto se li conosci bene e quindi ti danno retta. Perché i bambini sono senza pregiudizi e se dici loro che quello che stanno masticando è Peppa Pig o la sua amica pecora, smettono subito di mangiarlo. Non si sognerebbero mai di dirti, lo so che questa è Peppa Pig, ma che vuoi farci, mi piace troppo. Purtroppo però la sua influenza su di loro è limitata nel tempo, perché poi devono tornarsene a casa, dove la mamma o i nonni, se va bene, diranno loro che da piccoli la carne è necessaria, ma quando sarai grande potrai fare tutto quello che vuoi, anche smettere di mangiare gli animalini. E il poverino che deve fare? Ci crede perché è la sua mamma che lo dice. Allora io quest'anno al coniglietto pasquale chiedo che le mamme e i babbi dicano un po' meno di bugie ai bambini e spieghino loro che non è necessario mangiare gli animalini e che magari dopo il pranzo nelle loro stanzette siano indulgenti con i poveri zii che cercano solo di dire la verità per mettere a posto un po' di semini buoni. E allora buona Pasqua a coloro che decideranno di non mettere sofferenza nel loro piatto. Sostiene Vallauri. Terza volta che mi tocca parlare di Pasqua e dell'agnello pasquale, comincerei chiedendomi qual è il significato della Pasqua. La Pasqua ha fondamentalmente due significati: quello della morte in croce di Gesù, agnello di Dio, vittima di un sacrificio voluto da quel Dio terribile che è il Dio dell'Antico Testamento, e a questo si dedica la Settimana Santa, in particolare il Venerdì Santo, e il secondo significato è la risurrezione, che è la festa della vita addirittura immortale. E ci si può chiedere, ma che cosa c'entra la macellazione degli agnelli con questi due significati? Beh, non c'entra niente con la morte di Gesù, agnello di Dio. Non perché lui è l'agnello di Dio, noi dobbiamo mangiare gli agnelli. E non c'entra niente, anzi c'entra ancora meno, con la risurrezione, che è la festa della vita. Mentre Gesù risorge e le foglie nascono, muoiono gli agnelli. Quindi una doppia contraddizione, o meglio, la completa estraneità della morte degli agnelli alla morte di Gesù, agnello di Dio, non oso dire abbacchio di Dio, e la completa estraneità della morte degli agnelli alla celebrazione della vita. E allora cosa fare? Beh, direi si impone una critica non solo animalista o razionale, ma anche proprio cristiana. Cioè, secondo me, i cristiani, pensando ai due significati della Pasqua, dovrebbero completamente astenersi dalla consumazione degli agnelli. Non parliamo poi di quella oscenità che è la gourmetizzazione. Mi è capitato purtroppo un numero di Sale e Pepe del 2012, dove ci sono frasi come: per il taglio dell'agnello più tenero e sfizioso, una golosa frittura in pastella, e altre cose del genere. Quindi la celebrazione della morte di Gesù diventa una golosa e sfiziosa mangiata di agnello. E il Papa, visto che il Papa è molto responsabile delle feste cristiane, beh, io direi che un Papa che non condannasse o almeno criticasse, si desolidarizzasse dalla macellazione degli agnelli, o sarebbe un Papa non intelligente e sensibile, o sarebbe un Papa non coraggioso. Comunque, con Papa o senza Papa, direi anzitutto boicottare con dolcezza, semplicemente boicottare. Il consumo critico è l'atto politico per eccellenza nella società dei consumi, molto più del voto politico, che purtroppo di espressione delle nostre scelte, delle nostre preferenze, ha ben poco. Quindi anzitutto il consumo critico, e poi forse comprare qualche agnello e salvarlo e fargli vivere la sua vita. Mi ricollego alla trasmissione su quell'agnellino sfortunato e fortunato, sfortunato perché c'aveva la bocca storta e la sua mamma pecora l'aveva rifiutato, e fortunato perché è stato adottato e così si è salvato diversamente dai suoi fratelli fortunati. Boicottiamo